أرض الأجداد. صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو فلسطين عربية حرة أبية القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو قالوا المثل Buongiorno Palestina. Fatti e rassegna stampa della settimana. Dopo innumerevoli ritardi, le Nazioni Unite hanno rilasciato il tanto atteso database delle aziende che operano negli insediamenti illegali nella Palestina occupata. L'elenco indica 112 imprese che svolgono alcune specifiche attività che vengono puntualmente elencate. Tra queste, le attrezzature e materiali che facilitano la costruzione e l'ampliamento degli insediamenti e del muro, apparecchiature di sorveglianza e identificazione per insediamenti, muri e posti di blocco, e via discorrendo altre 8 attività che vengono indicate. Il giornalista Jonathan Cook, in vista delle prossime elezioni in Israele a marzo, constata l'evanescenza della sinistra sionista. Non c'è spazio per il cosiddetto sionismo progressista. Altro giornalista, Ramzi Barud, a proposito della passione di Salvini e delle destre per Israele, denuncia le radici nascoste del passato fascista di Israele. Le vere basi ideologiche del sionismo, quindi dello stesso Stato di Israele, non furono quelle di Theodor Herzl, che peraltro si dichiarava comunista, ma piuttosto quelle di Jabotinsky, di cui Mussolini, parlando apertamente a favore del sionismo, ebbe a dire: perché il sionismo abbia successo dovete avere uno Stato ebraico, la persona che lo capisce è il vostro fascista, Jabotinsky. Così disse Mussolini nel novembre del 1934 durante una conversazione con Nahum Goldman, fondatore del Congresso Ebraico Mondiale. Gli articoli di queste citazioni li trovate sul sito di Amicizia Italo-Palestinese. Per venire ai fatti di casa nostra, in piazza Strozzi a Firenze sabato scorso 15 febbraio si è svolto il presidio No al piano Trump. Non a caso il presidio si è svolto in piazza Strozzi, in quanto in via della Spada, appena dietro Palazzo Strozzi, ha sede il Consolato di Israele. È stato un presidio molto partecipato, anche se molti che avrebbero potuto esserci erano invece a Roma alla manifestazione nazionale dei curdi. Piazza Strozzi piena, con molta presenza di palestinesi, interventi tra gli altri di Abed della comunità palestinese, di Ezzedin, imam di Firenze, di Edoardo del CPA, di Dmitri Palagi, che ha ricordato che in Consiglio Comunale, nel dibattito sull'antisemitismo, la Lega ha chiesto il riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele, come se c'entrasse. Insomma, tutti a dire no agli insediamenti coloniali e al furto di terra in Palestina, tema che è l'oggetto di quanto parleremo ora nella trasmissione di oggi. We'll be right back. Come abbiamo detto, il piano Trump legalizza gli insediamenti israeliani in territorio palestinese. Su questo vediamo un attimo di che cosa si tratta, che origine hanno e qual è la storia di questi insediamenti. Ce ne parla Marisa. Si può dire che la prima azione organizzata di insediamento ebraico in Palestina risale al 1869 con la costruzione della scuola agricola di Mikveh Israel nei pressi di Jaffa. Questa impresa intendeva innanzitutto svolgere un'azione e un'attività di rigenerare e civilizzare gli ebrei orientali con l'istruzione e il lavoro. Il progetto fu reso possibile a quei tempi dall'autorizzazione concessa agli stranieri di possedere le terre fino alla fine dell'impero ottomano. E quindi questa prima scuola agricola verrà considerata come uno strumento di sviluppo della regione, così come lo erano le altre scuole agricole gestite dai missionari cristiani, in prevalenza cattolici. Nel 1878, con il sostegno del barone Edmond de Rocheville, viene fondata la prima colonia ebraica in Palestina, Bet Atika. E sull'onda dei pogrom in seguito all'assassinio dello zar Alessandro II, nel 1881 c'è una prima massiccia ondata migratoria dalla Russia zarista. E quindi fra il 1881 e il 1900 ci sono circa 1 milione di ebrei che lasciano la Russia. La stragrande maggioranza di questi si rifugia nei paesi occidentali, soprattutto negli Stati Uniti, e un'esigua minoranza sceglie come meta la Palestina. L'arrivo di circa 35.000 migranti segna quindi l'inizio della prima alia, cioè della prima immigrazione ebraica in Palestina e della storia della conquista sionista del paese. Un'immigrazione ebraica che si presenta già con quei caratteri esclusivistici di conquista, che poi saranno e diventeranno l'aspetto prevalente. I nuovi arrivati lavorano appunto a Mikveh Israel e successivamente acquistano terreno incolto a sud di Jaffa e vi fondano un'altra colonia di Rishon LeZion. Altri migranti fondano un'altra colonia e altri ancora riattivano quella fondata dal barone Rothschild, perché era stata abbandonata in seguito a causa della malaria. Poi siamo nel 1882, vengono costruite altre colonie da un centinaio di famiglie rumene che avevano abbandonato il loro paese per sfuggire all'antisemitismo. Però, ecco, diciamo che saranno le sovvenzioni, l'intervento del barone Rothschild a salvare il primo tentativo di colonizzazione ebraica in Palestina, che altrimenti sarebbe fallito. E fino al 1903 vengono fondate altre 29 colonie agricole. Sempre nel 1903 abbiamo un'altra e nuova ondata immigratoria che si verifica a causa della ripresa dei pogrom antisemiti nella Russia zarista. Ecco, questa prima alia viene seguita da una seconda alia che diciamo inizia dal 1904 fino al 1914, lo scoppio della prima guerra mondiale, che vede ben 40.000 ebrei che però rappresentano per composizione sociale e orientamento politico un'altra ondata di immigrati, perché i nuovi venuti, infatti, hanno subito l'influenza del movimento rivoluzionario russo e il loro sionismo è imbevuto di un miscuglio di idee romantiche, socialiste e anarchiche. E voglio qui ricordare, fra l'altro, Claudio, che nel 1897 c'era già stato il primo congresso sionista a Basilea, in cui Theodor Herzl aveva posto le basi dell'idea sionista. Questi nuovi venuti sono in maggioranza giovani, che portano un notevole dinamismo, una particolare vitalità intellettuale e hanno una maggiore consapevolezza di quelli provenienti, diciamo, della prima area sugli obiettivi da perseguire, perché questi immigrati riescono a imporre il concetto della necessità della conquista della terra e della conquista del lavoro, che rappresentano il seme di una nuova ideologia, il cui obiettivo, già da quei tempi, è quello di vuotare dei suoi abitanti naturali quella terra a favore del popolo senza terra. Ti ricordi, no? Un popolo senza terra per una terra senza popolo. Ecco, da queste due alea, però, mi pare che abbiano un aspetto che successivamente non riconosceremo più, cioè quello che la terra viene comprata, cioè viene comprata da proprietari che sono proprietari palestinesi. Poi ci sono dei motivi per cui i palestinesi a un certo punto si debbono liberare della terra, no? La questione dopo la Prima Guerra Mondiale. C'è la questione dei debiti che l'Inghilterra fa ricadere sui palestinesi, debiti contratti dall'Impero Ottomano, ma di questo magari ci parlerai dopo. Però diciamo che mi pare c'è un tratto che conviene connotare in queste due prime alea, cioè che la terra non viene rubata, ma viene comprata. Poi viene comprata in modo con modalità e con gestione soprattutto successiva che darà una serie di contraddizioni, ma di queste ne parleremo dopo. Comunque è comprata questa terra. Sì, infatti, in questa seconda area vediamo la continuazione dell'acquisto di terreni urbani, tipo quelli situati sulle pendici del Monte Carmelo, siamo vicino a Haifa, a nord di Jaffa, e nel 1909 viene fondata appunto anche Tel Aviv su terra acquistata. La volontà però è di far prevalere il lavoro ebraico. E questo porta all'espulsione di molti contadini poveri arabi dalle terre acquistate dagli ebrei, scavando un fossato profondo tra la comunità araba e quella ebraica e provocando già rancori e ostilità da parte degli arabi, perché pensa la vendita di un solo latifondo può determinare l'espulsione di centinaia di famiglie. Nel periodo di questa seconda area vengono costruiti 22 nuovi insediamenti. Ma nonostante lo sviluppo di questo periodo, l'insediamento ebraico in Palestina è ancora a dimensioni ridotte. E c'è da dire che prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale la metà degli ebrei immigrati torna in Europa. E quindi nel 1914 gli ebrei quindi presenti in Palestina sono 85.000 su una popolazione complessiva di oltre 700.000 abitanti. E questo vuol dire che rappresentano il 12 e qualcosa della popolazione. Di questi ebrei, bisogna dire che meno della metà si potevano considerare allora sionisti. Ma quello che volevo mettere in risalto è che mentre nella prima aria si tese a costituire una società basata sulla supremazia ebraica, il metodo di colonizzazione invece della seconda area è basato sulla separazione dei palestinesi. Poi, alla fine della prima guerra mondiale, abbiamo la terza area, che quindi va dal 1919 fino al 23. Ricordiamoci che nel 1917 c'era stata la dichiarazione di Balfour, in cui si era promesso un focolaio ebraico da parte delle autorità inglesi, e poi nel 22 abbiamo il mandato britannico sulla Palestina. In questa terza area vediamo l'ingresso di 40.000 ebrei. Poi a proseguire fino al 28 abbiamo la quarta area e vediamo 82.000 ebrei in conseguenza della crisi economica europea, dell'Europa dell'Est soprattutto, e poi l'ondata fra il 32 e il 39 della Quinta Alea, dove arrivano 250.000 ebrei in considerazione e in seguito all'ascesa del fascismo. E qui nel 39, cioè dal 36 al 39, scoppia la grande rivolta palestinese. Ecco, ma dunque dal 1920 in poi c'è il mandato britannico. Ecco, dal punto di vista della gestione della terra, questo mandato britannico che cosa comporta? Sì, il mandato britannico poi ufficialmente inizia dal 22 e finisce nel 48, il 15 maggio del 48. L'amministrazione britannica in effetti si dimostra incapace di governare, circondata com'è dai sionisti che vogliono un'immigrazione sempre più imponente e sempre più massiccia perché puntano alla costituzione di uno Stato ebraico. E di fronte a questa situazione gli arabi invece si oppongono a un'icolonizzazione perché li priva della loro terra e del loro lavoro. Diciamo che tutta la storia del mandato britannico in Palestina è una storia estremamente complessa, dovuta alla crescente colonizzazione sionista e dei danni che questa causa alla popolazione del paese. Bisogna dire anche che tutti i beni gestiti in precedenza dalla sovranità ottomana, perché appunto l'impero ottomano è caduto dopo la fine della prima guerra mondiale, sono finiti nelle mani dell'amministrazione britannica in quanto contornatrice dell'amministrazione ottomana e sono quindi a disposizione della potenza mandataria. E c'è anche da tenere presente e far notare che in questo periodo c'è un vero e proprio ricatto. Un proprio vero ricatto fatto dalle organizzazioni sioniste che accettano di investire nel paese per costruire un palazzo, una fabbrica, un'azienda agricola, solo a condizione che gran parte dei posti di lavoro così creati vada non agli abitanti del paese, ma a degli immigrati che spesso non sono ancora giunti. In questo modo, quindi, si cerca di legare in modo molto stretto l'investimento in palazzi, fabbriche, aziende all'immigrazione, senza nessun vantaggio e anzi con molti inconvenienti da parte, delle popolazioni locali. Ecco, allora adesso tra poco facciamo l'intervallo musicale, ma volevo un po' cercare di concludere su questa parte dicendo che il mandato britannico poi ha operato anch'esso un arraffamento della terra, cioè una espropriazione della terra, nel senso che il mandato britannico, leggevo, ha accelerato i processi di confisca di terreni che erano terreni di proprietà comune, terreni di pascolo, terreni di legnatico, terreni che non erano nominalmente di proprietà di nessuno e che il mandato britannico rese proprietari lo Stato, che allora non esisteva, ma comunque confiscati questi terreni poi furono consegnati in toto al nato Stato israeliano quando esso fu fatto nel 1948. E questo ovviamente fu un elemento ulteriore di espropriazione della terra. Volevo aggiungere che quello che hai detto te è stato poi anche facilitato da una cosa, da un comportamento che i palestinesi avevano già sotto l'impero ottomano, nel senso che molto spesso non registravano la proprietà della terra perché questo li avrebbe portati a dover essere chiamati sotto l'esercito turco. E poi anche per un altro motivo, perché in Palestina vigeva la comunità agricola di un paese che comportava l'avvicendamento delle varie famiglie nella terra che veniva coltivata, no? E quindi il fatto di dichiarare proprietà una persona avrebbe scisso, avrebbe tolto questa tenuta tradizionale della terra. secondo appunto le tradizioni palestinesi. Adesso si fa un intervallo musicale, eh? Ok? Bene. Come suavdesti la Betlemme, come suavdesti la Betlemme, come suavdesti. E come song a fumigare di Stiffenest, come song a fumigare di Stiffenest, Jus. E canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, e canta, canta, canta, canta, Palestina, canta, canta, speranza. E che speranza che ha, risperato non muore. Canta Palestina. صباح فلسطين طل وفل وغشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد الطفل ونبقى نغني. Come son fuse e sure stasera, come son fuse e sure stasera, come son fuse e sure. Io sono la luna a mescanecolo, o sono la luna a mescanecolo, o sono la luna. E canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, speranza, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta Palestina, canta per Vittorio. Ganni le Palestine, ganni le Vittorio, ganni Enzo. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياة نغني للحرية نضيء سوية درب الحياة. Cantamma, cantamma, canta Enzo, cantamma per Vittorio, canta le Vittorio, e canta, canta, canta, canta le Vittorio, canta Palestina, canta le Salam, canta, canta speranza, canta, e che speranza canta, canta le Al-Hurriya, risperato non muore, canta Palestina, canta le Filistini, canta Enzo, canta le Al-Hurriya, vorrei riprendere dal Grande Rivolta Palestinese 36-39. E quindi ti vorrei chiedere, Claudio, ci puoi dire qualcosa di più preciso di questa grande rivolta? Dunque, la rivolta del 36, cioè prima del 29 e poi del 36, fu una rivolta generale, la rivolta araba in tutta la Palestina, e fu repressa dagli inglesi in modo feroce. Le motivazioni della rivolta erano che questa invadenza ebraica stava soffocando la vita economica dei palestinesi, privazione del lavoro, privazione della terra, esclusione, estromissione. Quindi c'erano più motivi per una rivolta. Questa rivolta fu gestita dagli inglesi, ripeto, in modo feroce, con 15.000 morti, gente, attivisti chiusi in gabbie di ferro nel deserto a morire sotto il sole, e l'esclusione e l'esilio, di fatto, della dirigenza palestinese. Ecco, questo è molto importante, quest'ultimo fatto, perché nel 1948, quando poi fu costituito lo Stato di Israele e ci fu la cosiddetta guerra d'indipendenza, che guerra non fu, ma comunque ci fu questa estromissione massiccia di palestinesi dalle loro terre, la Nakba. I palestinesi si trovarono senza una dirigenza politica, perché la dirigenza politica era stata già fatta fuori 10 anni prima. Ma sulle conseguenze economiche e sugli sviluppi successivi, ecco, ridiamo la parola a Marisa. E sì, parliamo della sorte dei palestinesi dopo il 48. I palestinesi rimasti nello Stato di Israele, che fu proclamato il 14 maggio del 1948, il giorno prima che gli inglesi lasciassero il territorio, porta a una violenta espulsione, di persone. E quindi, questo non rappresenta semplicemente un problema di sicurezza. Ma la presenza di queste persone diventa un ostacolo alla missione storica del sionismo, perché è vero, ci fu l'espulsione di 800.000 palestinesi, ma pressoché altrettanti riuscirono a rimanere sulla terra. E questa espulsione fu esercitata dai militari con la violenza armata vera e propria, ma anche furono talvolta sufficienti atti di forza e di coercizione. Israele si presentava ed era visto anche dagli inglesi, dal mondo europeo, come un avamposto del mondo libero, un bastione di democrazia in un'area dove questa era assente. E quindi per lo Stato nuovo, per lo nascente Stato ebraico, non c'era posto per una persecuzione razziale religiosa di cui erano sempre stati oggetto gli ebrei. E quindi, per questo motivo, nella dichiarazione di indipendenza, lo Stato di Israele promette questo: assoluta uguaglianza di diritti sociali e politici per tutti i suoi cittadini, senza distinzioni di credo, razza o sesso. E quindi la nascente nazione ostentatamente si fonda sulla legge, la giustizia e l'umanità. Ma mentre si proclama questo, i fondamenti legali del dominio militare a cui erano sottoposti gli interni palestinesi sono costituiti dalle norme di difesa del 1945, che erano già stati introdotti dagli inglesi e che dopo il 48, quando se ne andarono, Israele non abroga, anzi le applica con maggior severità contro gli arabi. L'impulso, diciamo, basilare del sionismo fino qui, e ancora continuerà, lo vedremo, è sempre stato quello di prendere possesso della terra. E quindi il nuovo Stato, manipolando leggi, prendendo in mano la legge ottomana sulla terra e facendola convergere ai propri obiettivi, si appropria di tutti i terreni abbandonati dai palestinesi in fuga e si impadronisce anche della terra di chi è rimasto, i presenti assenti. Ora, su questo dato, ricordo che c'è stata una trasmissione, una delle prime, con il quale, se ti ricordi, abbiamo parlato dei modi, dei metodi, le procedure con il quale Israele, appunto, si è impadronita della terra, con questo che ho detto ora, con l'esproprio per motivi militari e altro. Dopo la Nakba, con l'armistizio del 49, i confini di Israele comprendevano a quel punto il 78% della Palestina mandataria e il 50% in più di quanto previsto dal piano di spartizione dell'ONU del 47. Ecco, è da notare che una cosa è l'ampiezza dello Stato di Israele, Un'altra cosa è il possesso della terra, perché all'interno della cosiddetta linea di armistizio, della linea verde, diciamo così, dello Stato di Israele riconosciuto poi dopo la guerra del 1948, solamente il 6% di questa terra era di appartenenza ebraica. A farla diventare di scusate, di appartenenza sì, ebraica, a farla diventare il 6% solo. A farla diventare al 90% di appartenenza ebraica, ci pensarono le leggi che vengono promulgate da parte dello Stato di Israele. Possiamo continuare andando a parlare della colonizzazione sionista nei territori occupati nel 67, perché nel 67, con la guerra dei soggiorni, Israele porta il restante 22% della Palestina sotto il controllo appunto israeliano. E questo porta poi all'inizio, o diciamo una continuazione di una vessazione sistematica, continua, dei superstiti di una comunità che ha visto distrutto, disperso tutto quello che avevano in nome di questo ottuso nazionalismo che rendeva e ha reso insensibile alle tragedie palestinesi il popolo ebreo. Dopo il 67, quindi più del 55% della Cisgiordania è passato sotto il controllo israeliano, tra terre demaniali confiscate, recintate, soggette ad acquisto forzato, terreni di privati resi disponibili per lo sviluppo palestinese, con le procedure di cui dicevo prima, che sono state continuate e messe in pratica, l'assenza, l'acquisto, l'esproprio. E questo processo è sfociato in una seconda e più feroce pulizia etnica, in una seconda Nakba, a opera dell'esercito israeliano, con una logica sempre più forte e pressante di espulsione dei palestinesi dalla loro terra, con la costruzione del muro che siamo nel 2002 e quello che è poi diventato un carcere a cielo aperto, una tomba scoperchiata che è rappresentata dall'intera striscia di Gaza. Ecco, per riepilogare un pochino la situazione dell'impossessamento della terra, della conquista della terra, possiamo suddividere questo processo in tre fasi. La prima, di cui ha parlato Marisa, che è quella delle prime alia, cioè fino al 1920, in cui la terra viene acquistata con una serie di contraddizioni, però comunque viene acquistata. C'è una seconda fase, cioè acquistata della popolazione ebraica, dico. C'è una seconda fase, la fase mandataria, in cui ci pensa invece la potenza mandataria, cioè gli inglesi ci pensano a nazionalizzare, cioè a confiscare i territori che erano prima territori di uso comune. E questo porta a un gran impossessamento della terra da parte della potenza mandataria. Questa terra viene poi trasferita tutta allo Stato di Israele quando esso si viene costituito nel 48. Questo è il secondo metodo attraverso cui diciamo, Israele si impossessa della terra palestinese. La terza modalità è quella delle leggi israeliane successive alla conquista politica dell'indipendenza dello Stato di Israele. La legge sugli assenti, sulla proprietà degli assenti, altre leggi sulla vendita delle proprietà non a palestinesi ma solamente ad ebrei. Insomma, ci sono una serie di leggi attraverso cui i palestinesi vengono successivamente spossessati della terra. Quindi questi tre metodi, prima l'acquisizione attraverso soldi, la seconda attraverso l'influsso della potenza mandataria, confiscando le terre, la terza con delle leggi che sono delle leggi palesemente discriminatorie, ma che legalizzano in qualche maniera l'impossessamento della terra da parte ebraica. E si arriva così al 1967. Dopo il 1967 si sviluppano quelle colonie di cui oggi Trump regala generosamente allo Stato di Israele, cioè regala roba non sua a uno che non dovrebbe entrarci per niente. Allora, vorrei continuare parlando del periodo che inizia dagli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo 1 e 2 vanno dal 93 al 95. Dopo questi accordi non solo la colonizzazione non ha subito alcun rallentamento, ma addirittura c'è stata una forte accelerazione sia sotto i governi laburisti di Rabin, Peres e di Barak, sia ovviamente sotto i governi di Netanyahu, Sharon e Olmert. Tutto è avvenuto, come dicevano, in una corsa contro il tempo. Nel 2009 Netanyahu aveva accettato quasi di sospendere la costruzione di nuove unità abitative, a parole, ma questo non è avvenuto. E anzi, nel 2012 l'ampliamento delle colonie è stato impressionante. Soltanto a dicembre, pensa, il governo aveva approvato 11.000 nuove unità abitative, quasi quanto nei 10 anni precedenti. Nel 2012, sempre in base ai dati del Ministero degli Interni israeliano, gli insediamenti riconosciuti in Cisgiordania sono 121, riconosciuti perché anche Israele alcuni non li riconosce come insediamenti, soprattutto sono gli avamposti. Quindi riconosce 121 insediamenti con circa 350.000 persone. E a Gerusalemme Est vivono attualmente circa 300.000 israeliani e 20.000 nelle alture del Golan. Quindi, negli ultimi 5 anni, i coloni israeliani in Cisgiordania sono aumentati del 20%. Volevo finire con un dato recente. Nel 2018, il ministro della difesa israeliano Lieberman ha chiesto l'approvazione di un piano per costruire 2.500 abitazioni israeliane nelle 30 colonie della Cisgiordania occupata, aggiungendo che in seguito chiederà anche il via libera del Comitato per la costruzione di altre 1.400 case che saranno realizzate più avanti. In ultimo, Claudio, vorrei concludere. Dopo questo excursus, ricordando che tutti i maggiori organismi internazionali, il Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Corte internazionale di giustizia dell'AIA, l'Unione Europea, Amnesty International, poi Human Rights Watch, hanno qualificato gli insediamenti come una violazione di diritto internazionale in base all'articolo 46 della Quarta Convenzione di Ginevra, che dice, e lo ripeto, l'ho detto già in una trasmissione, ma lo ripeto, la potenza occupante non potrà mai procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della propria popolazione civile sul territorio da esso occupato. In più, lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che Israele non ha mai ratificato, definisce quanto ti ho detto sopra un crimine di guerra. Nonostante queste condanne ricevute, Israele afferma che la legalità dell'edificazione di colonie alla luce del diritto internazionale è accettato perché lo Stato di Israele è accettabile, perché lo Stato di Israele nega che ci sia occupazione di territorio. Ecco, quello che ha detto ora Marisa illustra qual è il quarto modo per impossessarsi di territorio, cioè quello del furto man bassa. Il metodo è sempre quello che è stato illustrato anche in precedenti trasmissioni che abbiamo fatto, cioè inizialmente si dice che per la sicurezza di Israele quella è zona militare, vanno i militari, mettono su qualche tenda, poi arrivano qualcuno che mette una roulotte, qualche religioso, mette una roulotte, viene qualche famiglia e dopo un po' nasce la colonia. È così, una nuova colonia, un nuovo furto di terra. E ora Trump legalizza tutto. Questo è il quarto metodo. Con questo noi vi salutiamo per ora, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo e vi ringraziamo per l'ascolto di oggi. Alla prossima. Inshallah. صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان لا صفقة جان.